Mantova, alleggerimmi il portafoglio, anche se non diminuì la fe. Ma è difficile entrarne la più forte, girano l'acque intorno alle sue porte. Un desiderio d'ombra e d'ametista, morbido come un manto di velluto, mi sconvolse la mente e poi la vista, come sempre feroce ma taciuto. Perché non si trattava di conquista, ma di invitare a un suono sconosciuto, conoscendo nei tuffi dentro il cuore la tenera impotenza dell'amore. Notte sospesa dell'hotel Righini, da una gonfia dolcezza posseduto, quando cercando ciò su cui ti chini, per non farti confondere, resti muto, e mentre dentro gridano i violini, non esce il vino fuori dall'imbuto, tale è la spinta, si dovria piuttosto rompere il tino e immergerla nel mosto. Certe donne son sempre di nascosto e san tenere tutto sul sospeso, in lei l'oscuro misurar del costo ed in me la paura d'un frainteso. Poi l'emozione, l'ora tarda e il posto, per quanto bello un po' da malinteso, restò sospesa lì sull'impiantito, un vago non capir di aver capito. L'alba ci colse con la sua dolcezza, un dormiveglia di gesti più belli, mi svegliai con in mano una carezza e gliela sciolsi a lungo tra i capelli. Donizetti alla radio e morbidezza estenuata, lunga che cancelli la sete, e la questione restò sospesa, perché non ci fu guerra e neanche resa. Ma né l'una né l'altra ricercavo, triste abbracciato a lungo sul cuscino, ma un sonno lungo, ed in quel sonno andavo a misurarmi in alto col destino. Fuori da tutto ciò che mi fa schiavo, l'arti e le seduzioni dell'assassino, venga pure e mi faccia impallidire, ma se viene da sé debba avvenire. Venne e non venne, come sempre accade, l'equivoco è la cena delle donne, gli piace far la danza sulle spade e poi dir che si sciupano le gonne, seppure Dio, che pure è Dio, le invade, sempre vergini restan le madonne, e tutto questo poi risulta onesto, se salita e discesa è il tardi e presto. Scesi per i mercati mantovani, che improvvisi si sciolsero nel sole, pieni di stoffe e colori mondani, polli, galline, maglioncini e suole. Trovai senza cercarlo in quelle mani altre virtù più rustiche, brianzole, un gusto così vivo della vita che fa sperare che non sia finita. Di questo gusto mi partecipava, e non per cortesia, per quelle piazze rideva e veramente si eccitava del sole come fanno le ragazze, e poi guardava tutto e poi mangiava i dolci e poi beveva nelle tazze coi begli occhi affollati di stupore e un'allegrezza che stringeva il cuore. Vivere all'improvvisa non è errore, se si sottenda una tensione nuova, come per liberarsi da un dolore, fidando che la vita sia la prova. E lo stupirsi ancora del colore, con un istinto che tutto rinnova, questo scoprirla fu degli migliori, non sospettando in lei tali chiarori. Una cialtroneria così bambina, un'ingordigia splendida e ribelle, un eccitarsi lungo di marina, contemplando pulcini e colombelle, coinvolgendomi in scelte di vetrina e restandomi pelle contro pelle, fino a casa di un'altra milanese, basta che siano in due, fanno paese. Civiltà di ragazze meneghine, di tavoli puliti e spazi chiari, questo essere mai donne e mai bambine, misurando gli eccessi e i denari, tessendo trame con le loro trine vivaci, e dire sempre ma che cari, come se fosse sempre un frullar d'ali, ed anche queste due sono alte uguali. Offenbach è geniale quando vuole, crudele, veramente di gran gusto. Storie di dei cretini e di mariole, nell'Orfeo all'inferno, ben robusto d'intreccio. Orfeo non ama né lei vuole, impegolata di ben altro fusto. Infine il rivoltarsi della storia si conclude in Can-Can, pieno di gloria. E nel teatro misterioso e rosso ancora la magia mi porta in braccio, un popolo di maschere commosso mi guarda mascherarmi in quel che faccio, ed ancora son qui che mi sto addosso impegolato nell'eterno laccio, mentre la grazia obliqua dei saluti ci fa un po' più lontani e sconosciuti. Le lascio un nastro ed un registratore perché senta in privato quei discorsi e una lettera scritta con il cuore d'uno che aveva il cuore morso a morsi. Lascio tracce possibili d'amore ma discrete, così senza scomporsi, a ciò che perlomeno intimamente non debba io rimproverarmi niente. Vedremo poi la storia come butta, ma sono saldo e molto meno teso. La mia bandiera batte bella e asciutta ed io non ho attaccato né difeso. Bisogna ogni bevanda berla tutta, solo così poi ci si leva il peso. Andrà il destino come deve andare, io feci quello che dovevo fare. Ma certe donne come sono avare, come la fanno lunga inutilmente, che è più semplice chieder di scopare che di avere un incontro più decente, che è più facile farle sbottonare in orgiastici rantoli di niente che avere una misura un po' più vera, più serena, più calda, più sincera. E raramente sono primavera, neanche le avessi chiesto prestazioni del tipo vestiti da baiadera e mugolando mordimi i coglioni, ma solamente d'esserci se c'era e accompagnarsi con le mie canzoni. È questa obesità, questa lentezza che mi lasciano un senso d'amarezza. Ma spero almeno non mi perda il Sony, altrimenti fo voto di comprare soltanto i 33 di Little Tony e di starmeli in casa ad ascoltare. E non trovando la rima con Sony ti saluto e mi vado a coricare. Dite allo mastro Zellero che il ghiozzo cercò la luna ed affogò nel pozzo. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba